Europa 24. In primo piano il Consiglio europeo straordinario sull'immigrazione, fortemente voluto dall'Italia dopo il nuovo naufragio nel canale di Sicilia. Un'Europa, quella che oggi si incontra a Bruxelles, che cerca nuove strategie per impedire nuove stragi. Si riparte da 10. 10 come i punti proposti lunedì dalla Commissione europea per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Suona paradossale e anche un po' ipocrita che gli stessi paesi europei che 6 giorni fa concordavano di non essere assolutamente d'accordo sul rafforzamento delle operazioni marittime nel Mediterraneo, neppure una settimana dopo si sbraccino per dimostrare solidarietà e determinazione nel fronteggiare la crisi. Tra gli stati non c'è la volontà collettiva di un'azione marittima più forte, ammetteva venerdì una fonte comunitaria. 6 giorni dopo il quadro è radicalmente cambiato. Nel mezzo, una catastrofe umanitaria con centinaia di migranti morti intrappolati nella stiva di un peschereccio a poche miglia dalle coste libiche. Nel mare dell'ipocrisia europea sono sguazzati per anni i pescecani ingrassatisi col traffico di uomini. Finalmente ora ci sono anche loro nel mirino della reazione comunitaria che potrebbe spingersi fino ad azioni militari contro i barconi. Senza dimenticare l'auspicato raddoppio delle risorse per Triton, obiettivo minimo per non trasformare il vertice odierno in un clamoroso boomerang di immagine. Su questo punto non dovrebbero esserci problemi, ma non può essere l'unica risposta a fronte di un dramma di tale portata. Un punto chiave sarà quello della ripartizione dei rifugiati tra i paesi europei, che finirebbe per portare alla revisione del regolamento di Dublino. A parte l'Italia e i paesi della sponda sud, a parte Germania e Svezia storicamente accoglienti, come si muoveranno gli altri paesi, ad esempio la Gran Bretagna, in piena campagna elettorale, di fronte all'ipotesi di una più equa ripartizione dei flussi in arrivo? È probabilmente utopistico ritenere che l'Europa oggi trovi la ricetta su una politica comune di immigrazione inseguita senza voglia alcuna per anni. Sarebbe però quantomeno auspicabile l'inizio di un serio percorso in quella direzione. È tempo che si getti la maschera su drammi come questo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A margine del Consiglio europeo sull'immigrazione si terrà anche l'incontro fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier greco Tsipras. Il vicepresidente della Commissione responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, ha confermato che alla riunione dell'Eurogruppo domani mattina nella capitale lettone non ci saranno decisioni per la Grecia. Le discussioni a livello tecnico finiranno forse in maggio, ha detto, e per ora i progressi non sono buoni. Stamattina a Reggio Calabria l'incontro fra la commissaria europea alla politica regionale Corina Cretu e il governo italiano sui fondi comunitari. Il primo obiettivo è il lavoro. I programmi europei devono essere in questo senso fonte di speranza, ha detto la Cretu. Siamo qui, aggiunto, per aiutare e collaborare. Complimenti per gli sforzi messi in campo. Abbiamo già raggiunto ottimi obiettivi di spesa dei fondi comunitari nel 2014 e stiamo lavorando per continuare ad usare i fondi di coesione, che sono importantissimi per dare sviluppo e lavoro al sud e al paese che lo meritano, ha detto il ministro per le infrastrutture e i trasporti Graziano Del Rio. Approvata dalla Commissione europea la nuova proposta di regolamento per le importazioni di OGM in Europa, proposta che rischia di compromettere i negoziati in corso per il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti. Fa discutere la nuova proposta di regolamento sulle importazioni di alimenti o mangimi OGM approvata dalla Commissione europea, proposta in base alla quale gli Stati membri dell'Unione avranno la possibilità di decidere se limitarne o proibirne l'uso sul proprio territorio, anche nel caso di autorizzazione a livello comunitario. Ognuno dei 28 paesi dell'Unione in pratica potrà decidere di proibire l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati per ragioni di prevalente interesse pubblico, ragioni diverse cioè da quelle sul rischio per la salute o l'ambiente già valutate a livello europeo. Il testo, che passerà ora al vaglio di Parlamento e Consiglio europeo, viene sottolineato negli ambienti comunitari, rischia di creare non pochi problemi ai negoziatori del trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, perché, viene fatto notare, va nella direzione opposta. Una direzione però che combacia con le prese di posizione iniziali dell'Unione, tenere gli OGM fuori dal tavolo dell'accordo transatlantico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.